Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett, traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Stanchi, sporchi e abbagliati, i Ransom varcarono malfermi la soglia e si ritrovarono in casa loro. Era tutto come l'avevano lasciato la sera del così. La moquette, il divano, le poltrone con lo schienale alto, il tavolino finto antico col bordo lavorato, le zampe a capriolo e sopra l'ultimo numero di grammofon. Ed ecco, sul bordo del divano, il ricamo che Mrs. Ransom aveva abbandonato alle 6 in un quarto andandosi a cambiare per quell'indimenticabile serata. E lì, sui tavolini impilabili, il bicchiere in cui Mr. Ransom aveva bevuto un goccio per tenersi su fino alla fine del primo atto. Mrs. Ransom sfiorò l'orlo con un dito. Era ancora leggermente appiccicoso. Dalla mensola del camino, l'orologio donato a Mr. Ransom per i suoi 25 anni presso lo studio Selvey, Ransom, Steel and Company, suonò le 6. Mrs. Ransom però non era sicura se fossero le 6 di allora o di adesso. Anche le luci erano accese proprio come le avevano lasciate loro. «Uno spreco di corrente, lo so», era uso dire Mr. Ransom, «ma perlomeno tiene lontano il ladro di passaggio». E sulla console c'era il giornale della sera che aveva messo lì per la moglie, la quale in genere lo leggeva il giorno dopo a colazione. A parte un piatto di carta con gli avanzi freddi di uno spezzatino che Martin spinse abilmente col tacco sotto al divano mormorando un impercettibile «scusate», tutto, fino all'ultimo dettaglio, si trovava esattamente al suo posto. Sembrava proprio di stare a casa loro a St. John's Wood e non in un capannone alla periferia del nulla. Quel brutto presentimento con cui Mrs. Ransom si era messa in viaggio qualche ora prima era scomparso. Adesso gironzolava per la sala felice come una Pasqua, prendendo in mano qualche oggetto amato con un sorriso e un «oh» di riconoscimento o alzandolo per mostrarlo al marito. Quanto a quest'ultimo, rischiò di commuoversi, specie quando gli cadde l'occhio sul lettore CD, il suo vecchio, fedele lettore CD, come era ormai incline a considerarlo. Arnese venerando non più al passo con i tempi, certo, ma nella sua vetustà pur sempre dignitoso. Sì, era bello rivederlo, e Mr. Ransom fece omaggio alla moglie di un breve brano del Così col volume al massimo. Osservando quel ricongiungimento con un sorriso quasi orgoglioso, Martin chiese «Tutto a posto? Ho cercato di mantenere le cose così come stavano». «Senz'altro», rispose Mrs. Ransom. «È perfetto!» «Stupefacente», disse suo marito. Mrs. Ransom rammentò un particolare. «Avevo lasciato in forno uno sformato». «Sì», rispose Martin. «L'ho molto apprezzato». «Non era asciutto?» chiese Mrs. Ransom. «Appena appena», rispose Martin, seguendoli in camera da letto. «Forse era meglio metterlo a 170 gradi». Mrs. Ransom annuì e notò sul tavolino da toilette il pezzo di scottex, avevano finito i fazzolettini, con cui 3 prima si era tamponata il rossetto. «La cucina!» annunciò Martin come se non conoscessero la strada, anche se la cucina stava precisamente dove e come doveva, salvo la teglia, ormai vuota, che riposava lavata sullo scolapiatti. «Quella non sapevo dove andava», spiegò Martin in tono di scusa. «Non fa niente», gli rispose Mrs. Ransom. «Va qui». Così dicendo, aprì la credenza accanto al lavello e la mise a posto. «Me l'immaginavo, ma non mi sono arrischiato», disse Martin ridendo. E Mrs. Ransom rise con lui. Mr. Ransom lo guardò accigliato. Anche se si prendeva troppe confidenze, quel giovanotto era senz'altro molto gentile, ma l'atmosfera gli sembrava eccessivamente rilassata. In fin dei conti era stato commesso un reato, e nemmeno tanto piccolo. Quelli erano tutti oggetti rubati. Che cosa ci facevano lì? Ritenne giunto il momento di prendere in mano la situazione. «Volete un tè?» domandò Martin. «No, grazie», rispose Mr. Ransom. «Sì, grazie!» rispose Mrs. Ransom. «Poi», disse Martin, «dobbiamo sviscerare l'argomento». Mrs. Ransom non aveva mai incontrato qualcuno che usasse quell'espressione nella vita vera e, guardando il giovanotto, si rese conto, con una nuova consapevolezza, di sentirlo molto. Lo aveva sentito anche Mr. Ransom. «Sì, appunto», disse seccamente, sedendosi al tavolo di cucina con tutte le intenzioni di chiedere una spiegazione a quel giovanotto troppo compiaciuto. «Magari», suggerì Martin porgendo il tè a Mrs. Ransom, «magari a questo punto, con tutto il rispetto, vorrete darmi una spiegazione». Mr. Ransom aveva gli occhi fuori dalla testa. «Magari», sbottò, «con tutto il rispetto, vorrà dirmi perché addosso il mio cardigan». «Tu non lo mettevi quasi mai», intervenne placida Mrs. Ransom. «Ottimo questo tè». «Non è questo il punto, Rosemary». Mr. Ransom usava di rado il nome della moglie e solo come una sorta di corpo contundente. «E quella è la mia sciarpa di seta». «Quella poi non l'hai messa veramente mai? La trovavi volgarotta?» «Mi diverte proprio per quello», commentò Martin allegramente. «Ma si sa, le cose belle finiscono presto». E senza fretta e senza alcun segno di contrizione, notò Mr. Ransom, si tolse il cardigan, sciolse la sciarpa e posò entrambi sul tavolo. Libera da quel riparo, la maglietta di Martin proclamò apertamente il suo messaggio. «Se lo conosci, lo eviti». E, fra parentesi, «istruzioni sul retro». Martin si girò appena e, mentre Mr. Ransom si piegava in avanti per schermare la moglie da quel disegno scandaloso, Mrs. Ransom si piegò appena appena all'indietro. «In effetti», riconobbe Martin, «ci siamo messi un paio di cose sue. Ho cominciato io con l'impermeabile marrone. All'inizio me l'ero infilato un po' per ridere». «Per ridere?» esclamò Mr. Ransom, che non aveva mai colto l'aspetto umoristico del suo impermeabile. «Sì, solo che piano piano mi ci sono affezionato. È forte!» «Ma le starà troppo grande», disse Mrs. Ransom. «Infatti, per questo è forte. E nel suo armadio ci sono tonnellate di sciarpe. Cleo dice che ha molto gusto». «Cleo!» disse Mrs. Ransom. «La mia fidanzata!» Accorgendosi che Mr. Ransom ormai schizzava veleno da tutti i pori, Martin scrollò le spalle e aggiunse: «Del resto siete stati voi a darci via libera». Andò in soggiorno e tornò con una cartellina che posò sul tavolo. «Lei mi spieghi soltanto», gli disse Mr. Ransom con una calma ghiacciante, «perché le nostre cose si trovano qui». E così Martin diede una spiegazione che però non era una vera spiegazione e alla fine i Ransom si trovarono al punto di partenza. Una mattina di circa 3 mesi prima, il 15 febbraio, suggerì solerte Mrs. Ransom, era arrivato al deposito e, aprendo la porta, si era trovato davanti il loro appartamento sistemato esattamente come a Nasby Mansions e come loro lo vedevano adesso. Moquette, luci accese, atmosfera accogliente, un profumino che veniva dalla cucina. «Cioè», disse Martin con brio, «proprio odore di casa». «Ma si sarà reso conto», intervenne Mr. Ransom, «che era un fatto quantomeno insolito o no?» «Molto insolito», convenne Martin. Normalmente mobili e suppellettili venivano imballati e sigillati in un container che restava parcheggiato lì fino a nuovo ordine. «Qui arrivano quintali di mobili, ma sapete, io posso passare anche 6 mesi senza vedere una poltrona». «Ma perché è stato scaricato tutto qui?» domandò Mrs. Ransom. «Scaricato?» disse Martin. «E lei lo chiama scaricato? Ma questo è un poema, un capolavoro». «Perché?» domandò Mr. Ransom. «Beh, quando quella mattina sono entrato, sulla console ho trovato una busta». «Sì, la posta la metto sempre lì», disse Mrs. Ransom. Una busta, proseguì Martin, con dentro 3.000 sterline in contanti per 2 mesi di deposito. E posso dirvi che ben più delle nostre tariffe normali. Inoltre, aggiunse tirando fuori qualcosa dalla cartellina, c'era questo. Era una pagina, strappata dall'agenda gastronomica di Delia Smith, con la ricetta dello sformato che Mrs. Ransom aveva messo in forno quel pomeriggio. Sul retro qualcuno aveva scritto «Lasciare tutto così com'è» e tra parentesi «Ma usare a piacimento». L'invito era sottolineato. «Quindi, per tornare all'impermeabile, alle sciarpe, eccetera, mi è sembrato...» Martin cercò la parola giusta. «Mi è sembrato che quello fosse il mio imprimatur». Il ragazzo aveva frequentato per un breve periodo l'università di Warwick. «Ma quell'invito potrebbe averlo scritto chiunque», commentò Mr. Ransom. «Lasciando 3.000 sterline in contanti?» disse Martin. «Figuriamoci! Comunque ho controllato. A Newport Pagnell non ne sapevano niente. Lo stesso a Cardiff e a Leeds. Ho chiesto di verificare sul computer, ma non hanno cavato un ragno dal buco. Perciò mi sono detto, caro Martin, la roba sta qui e per il momento è pagata, quindi perché non ne approfitti?» E così ho fatto. Certo non mi sarebbe dispiaciuto se la scelta di CD fosse stata un po' più eclettica. Sbaglio, lei è un patito di Mozart? A mio modesto parere, ribatté Mr. Ransom furente, avrebbe potuto fare altri controlli prima di valersi così largamente dei nostri effetti. D'accordo, è una cosa un po' insolita, disse Martin, ma sinceramente non avevo motivo di sentire puzza di bruciato. Mr. Ransom colse, e ne fu irritato, l'intonazione impropriamente interrogativa con cui Martin e i giovani in genere parevano spesso concludere una frase. L'aveva già sentita usare dal fattorino dello studio. «E adesso Foster dove sta andando?» E quello rispondeva «A pranzo?» Ma ignorava che la voga si fosse diffusa fino a Aylesbury. Non avrebbe saputo dire perché, ma quel tono gli sembrava insolente e riusciva immancabilmente a metterlo di cattivo umore, ragion per cui Foster lo osava. Martin, invece, sembrava inconsapevole della sua irritazione. Anzi, ostentava una serenità talmente inattaccabile che Mr. Ransom la imputò all'uso di droghe. In quel momento se ne stava seduto felice e contento al tavolo di cucina, e mentre lui setacciava a casa in cerca di prove relative ad avvenuti danni o manomissioni o quantomeno utilizzo indebito, seguitava tranquillamente a chiacchierare con Rosemary, come ormai chiamava sua moglie. «Speriamo che non scleri», commentò il ragazzo mentre Mr. Ransom ispezionava rumorosamente gli armadi. Mrs. Ransom non era sicura di che cosa significasse «sclerare», ma afferrò il senso, annuì e sorrise. «Per noi è stata come una casa di bambola», disse Martin. «Io e Cleo abitiamo sopra un lavasecco». Mrs. Ransom pensò che Cleo doveva essere nera, ma preferì non chiedere. «A dirla tutta», e Martin abbassò la voce perché Mr. Ransom stava contando le bottiglie di vino sulla rastrelliera della dispensa, «questa faccenda ha ridato sprint al rapporto. Sa com'è quando cambia il contesto?» Mrs. Ransom annuì con aria competente. Era un argomento affrontato spesso nei programmi pomeridiani. «Bel letto!» sussurrò Martin. «Il materasso dà parecchio... sì, parecchio appoggio!» E diede una spintarella col bacino. «Non so se mi spiego, Rosemary», aggiunse facendole l'occhiolino. «È ortopedico», si affrettò a dire Mrs. Ransom. «Mio marito ha problemi di schiena. Probabilmente verrebbero anche a me se abitassi qua dentro un altro po'». Martin le diede una pacca affettuosa sulla mano. «Scherzavo!» «Quello che non capisco», annunciò Mr. Ransom rientrando in cucina mentre Martin teneva ancora la mano sulla mano di sua moglie. Altro fatto che Mr. Ransom non capì. «Quello che non capisco è come hanno fatto a ricordarsi con tanta precisione dove andavano le cose». Pas de problème, disse Martin andando nell'ingresso e tornando con un album per fotografie. Mr. Ransom lo aveva regalato alla moglie nel periodo in cui la spronava a trovarsi un hobby, insieme a una macchina fotografica che lei non era mai riuscita a decifrare, sicché né l'uno né l'altra erano mai stati usati. Adesso però l'album era pieno di foto. La Polaroid dei suoi prodigi, disse Martin. L'album conteneva una decina di foto di ogni stanza scattate la sera del così. Panoramiche, dettagli, un primo piano del camino, un altro della scrivania. Ogni ambiente e ogni superficie erano stati documentati con scrupolosa attenzione al particolare, grosso modo come avrebbe fatto una segretaria di edizione se la casa fosse stata il set di un film. «Ma il nostro nome e l'indirizzo?» domandò Mr. Ransom. «Semplice!» rispose Martin. «Basta aprire qualche cassetto!» dissero all'unisono il ragazzo e Mrs. Ransom. «Quante foto hanno fatto!» esclamò Mrs. Ransom. «Chiunque sia stato deve avere soldi a palate! Però guarda qui, come sembra bella la casa!» «La casa è bella!» disse Martin. «Ci mancherà!» «Non solo ogni oggetto al suo posto», continuò Mr. Ransom, «è esatta anche la posizione delle stanze». «Pareti di cartongesso», disse Martin. «Evidentemente se le sono portate dietro loro». «Ma il soffitto non c'è», disse Mr. Ransom trionfante. «Quello non gli è riuscito». «Però sono riusciti a mettere il lampadario», commentò la moglie. Ed era vero, l'avevano appeso a una trave che capitava proprio al punto giusto. «Beh, non credo occorra prolungare più del necessario questa fase del procedimento», annunciò Mr. Ransom. «Avvertirò l'assicurazione che i nostri beni sono stati ritrovati. La chiameranno senz'altro per prendere accordi sul ritiro e la restituzione. Non mi pare che manchi nulla, ma al momento è impossibile averne la certezza». «Oh, non manca niente», disse Martin. «Magari un paio di After Eight, ma posso facilmente reintegrarli». «No, no», intervenne Mrs. Ransom. «Figuriamoci, quelli», e sorrise, «li offre la casa». Mr. Ransom aggrottò la fronte e quando Martin andò a cercare i vari moduli, disse sottovoce a sua moglie che avrebbero dovuto far pulire tutto. «Non voglio pensare a cosa può essere successo. Sul tuo tavolino da toilette c'è un pezzo di Scottex quasi sicuramente sporco di sangue. E qualcosa mi dice che potrebbero aver dormito nel nostro letto». «Adesso ci scambiamo le veline», spiegò Martin. «Una a voi e una a me. Eccovi restituito il patrimonio. Ma si può dire patrimonio quando uno è ancora vivo o solo quando è morto?» «Si può dire, ma in questo caso parlerei piuttosto di beni», precisò Mr. Ransom autorevolmente. «Patrimonio», ripeté Martin. «Bella parola!» Al momento dei saluti nel cortile, Martin baciò Mrs. Ransom su tutte e due le guance. Lei pensò che, se il loro figlio fosse nato, avrebbe avuto più o meno quell'età. «Mi sento come uno di famiglia», commentò lui. «Eh già», rifletté Mr. Ransom. «Ecco come sarebbe stato se avessero avuto un figlio. Una situazione irritante, sconcertante, una palla al piede». In un modo o nell'altro riuscì a stringergli la mano. «Tutto è bene quel che finisce bene», disse Martin dandogli una pacca sulla spalla. «In gamba, eh?» «E se fosse un complice?» domandò Mr. Ransom una volta saliti in macchina. «Non mi sembra il tipo», gli rispose Mrs. Ransom. «Ah, no? E quale sarebbe il tipo? Ti era mai capitata un'esperienza del genere? Ne avevi mai sentito parlare? No, no, no, no, no, mi interessa. Secondo te, quale sarebbe il tipo?» «Stiamo andando un po' forte», disse Mrs. Ransom. «Dovrò avvisare la polizia, è ovvio», disse Mr. Ransom. Se alla polizia non gliene importava niente prima, figuriamoci adesso. Ma tu, chi sei? Come? Io sono l'avvocato. Tu chi sei? L'esperta? Per un po' il viaggio proseguì in silenzio. Esigerò un risarcimento, mi pare chiaro. Lo stress, l'incomodo, l'assillo mentale, tutte cose quantificabili che andranno considerate nella liquidazione finale. Stava già scrivendo la lettera a mente. Alla fine, il contenuto dell'appartamento fece ritorno a Nesby Mansions con un bigliettino appiccicato su una cassa che diceva: usare a piacimento Martin, e fra parentesi, battutaccia. Mr. Ransom volle far rimettere tutto esattamente come prima, cosa che senza il promemoria, l'album per fotografie di sua moglie, sarebbe risultata assai difficile. Certo, i facchini che riportarono i mobili si dimostrarono meno meticolosi, oltre che assai più lenti dei ladri che li avevano sottratti. Ma una volta riarredate le stanze da cima a fondo e passato con l'aspirapolvere o lavato a secco o lavatrice tutto quanto, la casa riassunse a poco il suo volto e la vita tornò a essere quella che una volta Mrs. Ransom considerava normale, ma che adesso tanto normale non le sembrava più. Ben presto, mentre il marito era in ufficio, Mrs. Ransom provò a vedere come stavano il tappeto e la sedia a dondolo di vimini nel contesto ora molto meno frugale del salotto. Ma anche se la sedia era comoda come sempre, l'insieme le sembrò strano e le diede la sensazione di star seduta in un grande magazzino. Allora relegò la sedia nella stanza degli ospiti, dove ogni tanto andava a trovarla e passava in rassegna la propria esistenza. Ma non era più la stessa cosa, no. E alla fine la sedia fu lasciata sul pianerottolo per il guardiano, che la inserì tra gli arredi della sua stanza dietro la caldaia, dove al momento stava tentando di familiarizzare con i romanzi di Jane Austen. Mr. Ransom se la cavava meglio di sua moglie. Pur avendo dovuto rimborsare i soldi dell'assegno, poteva obiettare all'assicurazione che bisognava tener conto delle casse nuove da lui già ordinate. Non era vero. Obiezione debitamente accolta, che gli consentì di investire in un impianto all'avanguardia sul serio.